Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La pulce d'acqua Daphnia è un tipico abitante degli stagni e degli acquitrini. Viene erroneamente chiamata pulce a causa dei suoi frenetici movimenti a pelo d'acqua. In realtà è un minuscolo crostaceo, una specie di gamberetto non più lungo di qualche millimetro. Eppure è un essere con una capacità di adattamento e una larghezza di vedute tali da fare invidia ai più grandi filosofi e scienziati che la razza umana conosca. In condizioni normali la Daphnia si riproduce per clonazione. In una sacca microscopica le femmine generano una miriade di coppie di se stesse, quindi la comunità è composta unicamente da femmine. Ma in condizioni avverse, in caso di siccità o con l'arrivo dell'inverno, le Daphnie cominciano a generare dei maschi e a riprodursi per via sessuale. Le uova che nascono così sono molto più robuste e adatte a resistere ai rigidi mesi invernali. Inoltre, così facendo, la comunità usufruisce di una innovazione biologica. La ricombinazione genetica irrobustisce la specie. Questo avviene anche con le muffe, le alghe e gli afidi, a dimostrazione del fatto che quando la natura ha bisogno non si fossilizza nell'abituale, cercando sempre nuove associazioni. E la scienza insegna che le migliori sono sempre quelle casuali, perché meno prevedibili, come scrive William McKean, docente di giornalismo alla Boston University. Pensate alle biblioteche. Quanti di noi entrano più a sfogliare libri a caso? Le nostre indagini sono diventate mirate. Grazie a internet possiamo trovare tutto ciò che vogliamo. Basta inserire un paio di parole chiave in un motore di ricerca per rintracciare, pur se con un fastidioso margine di errore di tanto in tanto, esattamente ciò che cercavamo. Il sistema è efficiente, ma prevedibile. Efficiente ma prevedibile suona un po' come noioso. Certo, il caso è molto più divertente. La lingua inglese ha una parola magnifica che coglie la potenza delle associazioni casuali, serendipità. Coniato dallo scrittore inglese Horace Walpole in una lettera del 1754, il termine deriva da una favola persiana dal titolo I tre principi di Serendip, i cui protagonisti, i figli del re di Serendip, antico nome dello Sri Lanka, per caso o per acume, scoprono continuamente cose che non stanno cercando. Come ricorda il romanziere statunitense John Barth attraverso una metafora nautica, la serendipità non si può pianificare. Non è possibile raggiungere Serendip tracciando la rotta. Bisogna salpare con fiducia per l'altrove e perdere l'orientamento in modo serendipitoso. Ma attenzione, la serendipità non consiste nell'abbandonarsi agli incontri casuali e basta. Essa si basa sì su coincidenze fortuite, ma che portano a una scoperta significativa per lo scopritore, il quale è capace di perfezionare un'intuizione, di aprire una porta nell'adiacente, di formulare un pensiero laterale. Per rimanere nella metafora nautica di Barth, la serendipità ha bisogno di rotte a prodi improbabili, ma ha anche bisogno di ancoraggi. Altrimenti le idee continuano a vagare senza approdare a nulla. La serendipità è un tipico elemento della ricerca scientifica, dove spesso scoperte importanti avvengono mentre si stava ricercando altro. Si può dire che in ogni scoperta scientifica deve per forza essere insito qualche elemento di casualità. Se il ricercatore sapesse già esattamente quello che sta cercando, non avrebbe bisogno di cercarlo. Gli basterebbe avere una conferma di una realtà che già prevede esista. Sono infinite le scoperte dell'umanità avvenute per caso. Da Cristoforo Colombo, che mirava a conquistare le Indie e raggiunse le Americhe, la storia è costellata di meravigliose casualità. La penicillina di Fleming, i raggi X scoperti da Röntgen, il teflon, la cottura a microonde, il cellofan, il velcro, perfino il pianeta Urano. Forse la definizione migliore di serendipità in campo scientifico è quella del ricercatore biomedico statunitense Julius Comroe. La serendipità è cercare un ago in un pagliaio e trovarci la figlia del contadino. La scoperta casuale di qualcosa che non si stava cercando, quell'incredibile concomitanza di fatti fortuiti che gli anglosassoni chiamano con il delizioso termine serendipity, è un fatto assodato, specialmente in ambito scientifico. La sperimentazione, unita a un pizzico di fortuna, porta spesso a scoperte inaspettate, che gli scopritori nemmeno si immaginavano lontanamente. Fleming non avrebbe mai trovato la penicillina se non avesse trascurato la disinfezione di un suo esperimento. Percy Spencer non avrebbe mai inventato il forno a microonde se non avesse avuto in tasca una barretta di cioccolato mentre lavorava a un magnetron che la fece fondere completamente. Sono fatti che passano fulminei nella mente di un giovane ingegnere elettronico di Buffalo, nello stato di New York. Egli sta osservando l'oscillatore che ha appena costruito, ma c'è qualcosa che non gli quadra. Un medico del Chronic Disease Institute gli ha chiesto di aiutarlo a realizzare un'apparecchiatura in grado di registrare il battito cardiaco. Il cardiologo gli ha fornito una serie di informazioni utili per la costruzione dell'apparecchiatura, che ha raccolto in una cartellina azzurra sulla quale ha scritto in stampatello il suo nome. Ingegner Wilson Greatbatch. Wilson Greatbatch. È strano, l'oscillatore non sta funzionando come dovrebbe. Wilson è stupito, non è certo la prima volta che ne costruisce uno. Poi però comprende cosa è successo, ha commesso un errore. L'oscillatore richiedeva un resistore da 10.000 ohm. Io avevo allungato la mano verso la mia scatola dei resistori per prenderne uno, ma feci confusione tra i colori e per sbaglio ne afferrai uno da un mega ohm. Dopo che l'ebbe inserito, l'oscillatore iniziò ad emettere dei suoni cadenzati a distanza regolare e intervallati da un secondo in cui la corrente non passava. Rimasi di sasso. Non potevo crederci. L'ingegnere è attonito. Forse per chi non ne sa quanto lui, questo fatto può non apparire così strano, ma per lui che se ne intende è qualcosa di inaspettato. Noi fidiamoci delle sue conoscenze tecniche e soprattutto lasciamolo tranquillo a cercare di capire quali possano essere gli sviluppi di questa strana faccenda. Intanto proviamo a conoscere meglio Wilson Greatbatch. L'asta della bandiera può essere usata come antenna. Sta pensando questo un giovanissimo boy scout mentre guarda parecchio all'insù. Wilson Greatbatch ha solo 16 anni, ma è già tanto che è negli scout e ancor più che ha una passione grandissima per l'elettronica e le trasmissioni radio. E infatti ha appena conseguito con grande facilità il brevetto di radioamatore. È a questo che gli serve un'antenna, per poter trasmettere il suo segnale ad altri campi scout e ad altri gruppi di radioamatori in tutto il paese. Wilson si diverte moltissimo e, benché molto giovane, si è già costruito diverse radio utilizzando pezzi di apparecchi rotti o vecchi. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Wilson ha 20 anni e moltissima esperienza in campo elettronico. È naturale per lui entrare in marina come radiooperatore. Il giovane viene assegnato alle navi da guerra che solcano l'Atlantico e dopo Pearl Harbor si trova coinvolto in numerose missioni di grande pericolo. Morirono tantissimi ragazzi, tanti che conoscevo. Anche se il mio compito era sotto coperta, poteva essere rischioso lo stesso perché erano tante le navi che venivano affondate. E in quel caso, di solito, quelli come me morivano come topi in gabbia. Ma io mi salvai. Si vede che il Signore aveva altri piani per me. Al termine della guerra, Wilson deve trovarsi un lavoro. Con le sue conoscenze, entra in breve in una società telefonica dove lavora come tecnico riparatore, ma in mente ben altro. Il suo sogno è laurearsi in ingegneria elettronica e, dopo aver messo un po' di soldi da parte, riesce a iscriversi alla Cornell University di Ithaca, mitica università statunitense che vanta tra i suoi ex allievi ben 40 premi Nobel. Wilson è onorato di poter far parte di un'istituzione così prestigiosa e, mentre riceve il suo diploma di laurea nel 1950, sente di aver realizzato il sogno della sua vita e di avere davanti a sé un futuro meraviglioso. Sta proprio pensando a quale potrà essere il suo destino. A lui piace moltissimo insegnare e nella sua città, a Buffalo, c'è un'ottima università dove potrebbe fare un colloquio. Ma in quel mentre riceve una lettera con una proposta interessantissima dal suo stesso Ateneo, per la precisione dal Dipartimento di Psicologia della Cornell University. Il nostro dipartimento è stato incaricato di effettuare studi approfonditi sul comportamento animale, in particolare su alcune scimmie. Per poter valutare l'attività cerebrale e cardiaca degli animali, abbiamo bisogno di un tecnico specializzato che si occupi delle rilevazioni e abbiamo pensato a lei. Wilson sta leggendo quelle righe che sembrano segnare per sempre il suo destino. Un progetto di studio sulla psicologia animale. Inutile dire che accetta immediatamente con entusiasmo. Gli animali li ha sempre adorati, fin da piccolo. Il suo compito si rivela non poco difficile. Misurare le onde cerebrali e il battito cardiaco delle scimmie mentre svolgono la loro normale vita in mezzo ai propri simili, oppure durante le sessioni di esercizi con gli psicologi. La cosa non è semplice, perché strumentazioni che possono infastidire gli animali rischiano di rendere il loro comportamento meno naturale. Wilson deve studiare parecchio per creare apparecchiature a portata di scimmie. Nell'estate del 1951, un ex radiooperatore della Marina americana, neolaureato in ingegneria elettronica, Wilson Greatbatch, sta registrando i risultati dell'encefalogramma di una scimmietta, ospite del programma di studio sul comportamento animale del Dipartimento di Psicologia della Cornell University. Grande appassionato radiotecnico fin da ragazzino, Wilson ottiene una borsa di studio per veterani, che gli permette di rimanere all'interno dell'università e di partecipare al progetto del Dipartimento di Psicologia. Un giorno, mentre si trova in mensa, al suo tavolo si siedono due chirurghi di passaggio che si mettono a parlare dei pericoli delle aritmie cardiache. Wilson sta pensando ai fatti suoi, ma poi lentamente si lascia prendere dalla conversazione dei due medici. Qualcosa, nella loro descrizione del disturbo, gli fa scattare nella mente un'associazione di idee. L'immagine del cuore come una radio che non riesce a ricevere o trasmettere correttamente il segnale. Le sue conoscenze gli insegnano che la storia dell'elettronica moderna è improntata a una regolazione sempre più accurata del segnale elettrico tra strumenti diversi. E se questo fosse applicato al cuore umano? I due dottori parlavano di impulsi elettrici. Dicevano che in certi casi la vita di una persona si poteva salvare dando al cuore un piccolo impulso al momento giusto. La loro fu una conversazione che mi colpì molto e, anche se poi non ci pensai più per 5 anni, non appena mi si presentò l'occasione, mi tornò in mente all'istante. La vita di Wilson va avanti. Il suo sogno di insegnare si concretizza nell'offerta che gli arriva dall'Università di Buffalo, la sua città natale, che gli offre la cattedra di ingegneria elettronica. Wilson lascia la Cornell University e le sue scimmiette e si trasferisce con la moglie e i figli. Accetta contemporaneamente un lavoro presso Buffalo Chronic Disease Research Institute, dove collabora alla realizzazione di apparecchiature elettroniche per uso medico. Ed è proprio mentre sta realizzando un oscillatore per la misurazione del battito cardiaco che Wilson Greatbatch commette l'errore che cambierà per sempre la sua vita e quella di milioni di persone. Un resistore di potenza molto superiore a quella necessaria trasforma il suo oscillatore da strumento di registrazione del battito cardiaco in simulatore. Mi venne in mente la conversazione sentita 5 anni prima al tavolo della mensa della Cornell University. L'impulso regolare che emetteva l'oscillatore mi fece pensare alla problematica della quale parlavano i due chirurghi e pensai che avevo davanti a me il prototipo di un congegno capace di rettificare il segnale difettoso del cuore aritmico, rimettendolo in sincrono attraverso un impulso inviato a intervalli precisi. Quando Wilson Greatbatch commette il fatale errore del resistore che modifica il funzionamento del suo oscillatore, esistono alcuni stimolatori elettrici del battito che vengono utilizzati negli ospedali per i malati di cuore e in particolare per i cardiopatici operati. Si è infatti notato che spesso gli operati subiscono arresti cardiaci o aritmie nelle prime ore successive all'intervento. Ma si tratta di macchinari che all'inizio degli anni 50 hanno le dimensioni di un grosso armadio a muro e sono attaccati a una presa di corrente. Nel giro di alcuni anni si riesce a ridurne un po' le dimensioni e anche a farli andare a pila, ma questo è tutto. Quello che ha in mente Greatbatch è tutt'altro. Il mio oscillatore era una scatoletta piuttosto piccola e potevo tentare di ridurlo ancora. E se fossi riuscito a farlo andare con una pila, sarebbe diventato portatile, tanto da ridare ai malati una vita normale. Avrebbero potuto andarsene in giro tranquillamente con il loro apparecchio. Quello che oggi è per noi un fatto acquisito non deve indurci in errore e non deve portarci a sottovalutare l'intuizione di Wilson Greatbatch. Senza volerlo, semplicemente allungando una mano e sbagliando oggetto, il giovane ingegnere si ritrova per le mani qualcosa di inaspettato. Un perfetto caso di serendipità. Ma è solo perché ha passato gli ultimi 5 anni a pensare alle aritmie cardiache come a un problema di trasmissione di un segnale che ora questo oscillatore gli appare come una possibile soluzione. Anzi, fa molto di più. È convinto che ci sia una possibilità che questo apparecchio possa in qualche maniera diventare parte del corpo del malato. Ci pensa e ci ripensa. Qual è il problema di un cardiopatico? Che non può fare una vita normale e se ha bisogno di un'apparecchiatura che aiuti il suo cuore a battere, deve stare chiuso in una stanza attaccata a una presa di corrente. Provavo e riprovavo sistemi diversi per rendere il mio oscillatore di dimensioni più ridotte. Per rendermi meglio conto di quello che erano le problematiche, mi recai all'ospedale dei veterani di Buffalo. Quello che vidi mi lasciò di sasso. I malati di aritmie cardiache gravi o gli operati al cuore erano attaccati a delle apparecchiature che avevano le dimensioni di un frigorifero e sembravano dei porcospini da tanti aghi che avevano conficcati nel corpo. Fu terribile e decisi che bisognava fare qualcosa per loro. Wilson Greatbatch è indeciso. Non sa bene che cosa fare. Si rende conto di avere per le mani qualcosa di importante, ma lui è un ingegnere elettronico, non certo un medico. Non sa bene come utilizzare la sua casuale invenzione, quel simulatore del battito cardiaco che lui è convinto possa dare gli impulsi regolari a un cuore aritmico per battere in maniera soddisfacente. Ecco, ci vuole un medico, un chirurgo che lo aiuti. La sua ricerca diviene febbrile, inizia a contattare diversi ospedali, ma per ben 2 anni si trova davanti solo porte chiuse. Nessun medico, direttore sanitario, responsabile di reparto con il quale egli parli, sembra interessato a quello che ha da dire loro. Non appena la conversazione si sposta sull'idea di un apparecchio che possa essere trasportabile, quando solo vagamente lui accenna al fatto che si possa inserire qualcosa all'interno del corpo, il viso dei suoi interlocutori prende un'espressione tale da farlo sentire l'ultimo dei pazzi. Ma quando un chirurgo dell'ospedale di Buffalo lo contatta per chiedergli una consulenza su un apparecchio per la misurazione della pressione, Wilson ha una strana intuizione. Mentre si reca all'appuntamento con lui, decide di parlargli della sua idea. Quello che lo colpisce subito quando se lo trova davanti è che per un istante ha l'impressione di guardarsi in uno specchio. Sì, perché come lui, anche il chirurgo che Wilson si trova davanti porta ben visibile attraverso il camice bianco aperto un vistoso farfallino. Porto sempre il papillon perché la cravatta mi intralcia quando faccio le saldature. Destini Incrociati vi porta oggi indietro nel tempo fino al 1958 per partecipare all'incontro fra 2 uomini che indossano entrambi un papillon, un farfallino molto colorato e appariscente. Uno dei 2 è Wilson Greatbatch, ingegnere elettronico che si ritrova per le mani in maniera del tutto fortuita un'invenzione rivoluzionaria. Mentre sta realizzando un oscillatore che ha il compito di misurare il battito cardiaco, Wilson commette un errore di distrazione, inserendo nel circuito un resistore di una potenza molto superiore a quella necessaria. Il risultato è che l'oscillatore, invece di misurare il battito, lo simula. Greatbatch si rende conto di avere inconsapevolmente inventato qualcosa che potrebbe risultare estremamente utile ai malati di cuore, a coloro che soffrono di aritmie cardiache, in quanto il suo apparecchio è in grado di far battere il cuore anche quando il cuore non ce la fa da solo. Esistono già degli stimolatori cardiaci elettrici, ma sono apparecchiature enormi attaccate a una presa di corrente. L'idea di Greatbatch è tutt'altra. Lui ha in mente di realizzare qualcosa di molto piccolo e a pile, così che il malato possa fare una vita normale, muoversi e vivere come chiunque altro. Ecco perché in questo preciso momento si trova di fronte al secondo uomo col farfallino. Il farfallino ho dovuto adottarlo per forza. E i miei piccoli pazienti, i bambini cardiopatici che curo, mi tiravano sempre la cravatta e alla fine mi sono deciso ad adottare il papillon. Beh, qualcuno che me lo tira ancora c'è. Vogliono vedere se è vero o se è all'elastico. I 2 uomini stanno ridendo proprio di gusto. Ci troviamo all'interno del Buffalo Veteran Hospital e il cardiochirurgo col farfallino che sta parlando con Wilson Greatbatch porta appuntato sul petto il suo cartellino di riconoscimento. Il suo nome è William Carduck. William Carduck. È stato lui a chiamare l'ingegnere. Ha un problema con un apparecchio per la misurazione della pressione e Wilson è considerato uno dei tecnici più bravi di Buffalo e anche uno dei più veloci. William non ha tempo da perdere, i suoi pazienti aspettano. Quando l'ingegnere inizia a raccontargli di quello che gli è capitato con il suo oscillatore, il chirurgo si dimostra subito interessato. Lui è abituato all'idea che un oggetto nato per un determinato utilizzo ne possa svolgere egregiamente un altro. La guerra in Corea fa paura, come tutte le guerre e forse di più. Forse perché siamo nel 1950 e la Seconda Guerra Mondiale è un ricordo ancora troppo fresco. Forse perché si preannuncia terribilmente cruenta e feroce, come lo sono i conflitti tra fratelli. Scoppia quando l'esercito nordcoreano invade la Corea del Sud. La reazione dell'ONU è immediata e durissima. Su suo mandato, gli Stati Uniti e altre 17 nazioni intervengono militarmente per liberare il paese occupato e rovesciare il governo nordcoreano. Circa 1,5 milioni di giovani americani prendono parte al conflitto. Fra di loro, numerosi reparti sanitari si affiancano all'esercito per essere pronti a intervenire nelle condizioni più estreme e cercare di salvare più vite possibile. Tra i vari ufficiali medici c'è anche il 35enne William Carduck, capochirurgo dell'unità mobile della prima MASH, il Mobile Army Surgical Hospital. Come tutti i suoi colleghi, il dottor Carduck fa del suo meglio, ma spesso non ha mezzi per aiutare i feriti. Un giorno si ritrova in prima linea. L'offensiva è particolarmente aspra e ci sono tantissimi feriti. In un'esplosione l'unità sanitaria ha perso la gran parte delle attrezzature, ma ci sono ragazzi che muoiono dissanguati e William non può stare con le mani in mano. Arrivarono dei soccorsi con le sacche di plasma. Potevo salvare qualcuno, ma avevo perduto la mia attrezzatura. Non avevo modo di fare le trasfusioni. Poi ebbi un'idea, una di quelle dettate dalla disperazione. Chiesi ad un artigliere di svuotarmi una granata e la usai come pompa per fare le trasfusioni. Certo, l'igiene lasciava a desiderare, ma in qualche maniera quei ragazzi si salvarono lo stesso. 55.000 giovani americani non fanno ritorno alle loro case, ma qualcuno di sicuro il dottor Kardak riesce a salvarlo con lo stratagemma della granata. Il suo gesto estremo viene raccontato dai testimoni presenti al fatto e per questo gli viene conferita una stella di bronzo e la croce di guerra. Un atto eroico, senza dubbio, ma anche la dimostrazione di come il chirurgo sia un uomo con la mente aperta, pronto a differenziare le proprie azioni in base agli eventi. Wilson Greatbatch si ritrova di fronte a quest'uomo, la cui apertura mentale e il cui coraggio sono garantiti dalle decorazioni che fanno bella mostra di sé nel suo studio. L'ingegnere non lo sa perché ancora non lo conosce, ma è proprio il tipo di persona che doveva sperare di incontrare sul suo cammino. È una cosa da pazzi, ingegnere. Ma se si riuscisse a farla, si potrebbero salvare almeno 10.000 vite all'anno. Quello di cui sta parlando Wilson Greatbatch e William Kardak è il cosiddetto pacemaker. Ma di cosa si tratta esattamente? La parola pacemaker viene dall'inglese, significa generatore di impulsi. Da pace, impulso, e maker, generatore. È un dispositivo elettronico che serve a generare impulsi elettrici per stimolare il cuore e farlo battere quando non è in grado di farlo da solo. In presenza di una bradiaritmia, cioè quando il cuore batte a una frequenza troppo bassa, tale da produrre dei disturbi, oppure una condizione di rischio per il paziente, l'impianto di un pacemaker è in grado di normalizzare il ritmo cardiaco, trattando il problema in via risolutiva. Il dottor Kardak ha gli occhi lucidi, guarda Wilson Greatbatch con una tale intensità da perforarlo. L'ingegnere gli ha appena esposto la sua idea. È certo di poter realizzare un apparecchio che non sia più grande di una scatola di fiammiferi, ma applicarla all'esterno del petto del malato non è una soluzione. Sarebbe fantastico poterlo inserire sotto la cute. Kardak guarda il suo interlocutore. Due problematiche si affacciano in un baleno alla sua mente. Una è il reject, l'altra è legata al consumo delle batterie. Wilson Greatbatch ricorda molto bene quel momento. Il problema maggiore non fu quello di rimpicciolire l'oscillatore, fu un gioco da ragazzi. E anche la difficoltà di trovare un materiale anallergico che non causasse rigetto, tutto sommato, fu superata presto. Il problema vero erano le batterie. Nonostante la difficoltà che vede in quel folle progetto, William Kardak crede a quell'uomo che ha di fronte. Sarà perché come lui porta il farfallino? O sarà perché lui è uno tanto pazzo da avere pensato di poter salvare delle vite umane facendo una trasfusione con una granata? Meglio non farsi troppe domande e mettersi subito all'opera. Kardak chiede quindi a Greatbatch un prototipo che viene realizzato con un materiale altamente compatibile, ma ancora alimentato con delle normali pile tradizionali. Per il test di prova viene richiesto l'aiuto alla vicina clinica veterinaria di Buffalo. E così, con l'aiuto dell'assistente di Kardak, il dottor Andrew Cage, il primo pacemaker impiantabile viene applicato al cuore estratto da un cane da poco deceduto. Incredibile ma vero, il cuore si mette a battere regolarmente, in sincrono con l'apparecchio. Più o meno un anno dopo, Greatbatch è seduto nel suo laboratorio e sta scrivendo sul diario dove annota tutti i suoi lavori, i progressi e anche i sentimenti che prova. Ho dei seri dubbi che qualsiasi cosa io possa fare mi darà mai più la sensazione che provai quel giorno in cui quell'apparecchietto elettronico di pochi centimetri, interamente costruito con le mie mani, controllava un cuore vivente. Da quel momento la sperimentazione prosegue incessante. L'ingegnere e il chirurgo lavorano gomito a gomito, cercano di risolvere ogni minimo problema, ogni possibile imprevisto. E finalmente si sentono pronti. Il 6 giugno 1960 un pacemaker viene impiantato con successo per la prima volta in un essere umano. Il paziente è il 77enne Henry Hanafeld, affetto da una grave patologia cardiaca e in fin di vita. Kardak gli parla apertamente, prospettandogli i rischi che però a suo vedere sono minimi. Ma il paziente non ha dubbi, si fida di lui. Durante l'intervento, realizzato in un tempo decisamente breve, nella sala d'aspetto attendono l'esito con trepidazione i parenti del paziente e l'ingegnere Wilson Greatbatch. Il resoconto di Kardak è commovente. Riuscì tutto perfettamente. Il pacemaker era davvero molto piccolo. Per prima cosa praticai una piccola incisione nella parte alta del torace, trovai una vena e vi inserì gli elettrocateteri. Li spinsi fino a raggiungere l'interno del cuore, li collegai poi dalla parte opposta al pacemaker, che infine inserì in una sacca ricavata tra la pelle e il muscolo pettorale. Fu tutto molto semplice, ma quel cuore che batteva a ritmo regolare mi parve un miracolo. L'operazione è perfettamente riuscita e un decorso successivo del tutto positivo portano il mondo medico a guardare con minor sospetto all'invenzione dei due del farfallino, come la gente chiama Cardac e Great Batch. Altri 15 pazienti vengono operati allo stesso modo nel giro di pochi mesi e tutti, grazie al pacemaker, rinascono a una vita nuova. Ma se il pacemaker si dimostra efficace al 100%, quello che Great Batch sottolinea in continuazione è la problematica della pila di alimentazione. Non si può pensare che un paziente al quale sia stato impiantato un apparecchio debba sottoporsi in continuazione a una operazione per il cambio delle pile. È necessario trovare una soluzione che permetta un'autonomia di molti anni. Nel 1799 Alessandro Volta, riprendendo gli studi di Luigi Galvani sulla corrente elettrica, riesce a realizzare la prima pila, oggi detta voltaica proprio dal suo nome. Da allora vengono fatti passi da gigante nella realizzazione di pile sempre più efficienti, a fronte di dimensioni sempre più ridotte. L'ingegner Wilson Great Batch sta parlando proprio di questo con il suo amico e collega, il cardiochirurgo William Cardac. Great Batch può considerarsi a ragione uno dei massimi esponenti di quella che i paesi anglosassoni chiamano la serendipity, la scoperta casuale di un'invenzione mentre si stava cercando tutt'altro. In effetti l'ingegnere, grazie a un fortunato errore, realizza sul finire degli anni 50 una micromacchina stimola cuore in grado di simulare il battito cardiaco. Insieme al dottor William Cardac e contro tutte le più nefaste previsioni del tradizionalissimo mondo medico, viene realizzato il primo pacemaker impiantabile, grande non più di una scatola di fiammiferi, che può essere posizionato con un piccolo intervento ambulatoriale sotto la cute, restituendo ai pazienti cardiopatici una vita normale. Dopo una breve sperimentazione, nel 1960 il primo pacemaker viene impiantato con successo in un paziente di 77 anni, a cui nel giro di pochi mesi fanno seguito altri 15 impianti. Il successo delle operazioni porta Great Batch e Cardac a proseguire nella ricerca. C'è infatti una problematica non indifferente da risolvere, quella dell'alimentazione a pile. Il pacemaker funzionava perfettamente. Le sue dimensioni e il materiale anallergico permettevano un impianto efficace e praticamente indolore. Era fantastico vedere che i pazienti potevano condurre una vita normale grazie a questa invenzione. Ma io non ero soddisfatto. L'alimentazione dello stimolatore elettrico doveva per forza avvenire con una batteria, ma quelle esistenti avevano un'autonomia scarsa. Pensavo giorno e notte a questi poveretti che avrebbero dovuto continuare ad essere aperti e richiusi per cambiare le pile. Wilson è un ingegnere, sa perfettamente che la ricerca richiede tempo e denaro. Ecco perché decide di fondare una società dedicata esclusivamente alla realizzazione di batterie per pacemaker. Mentre si trova nel suo nuovo studio, l'ingegnere riceve la visita di Cardac. I due del farfallino si trovano spesso a parlare della stessa problematica. Quello che il cardiochirurgo sta raccomandando anche questa volta all'amico ingegnere è di trovare un'alimentazione per i pacemaker che non solo sia contenuta nelle dimensioni ed abbia una vita lunga, ma soprattutto non abbia problemi di tossicità. Non è un compito facile da risolvere. I problemi del pacemaker trovano una completa soluzione ben 10 anni dopo la sua invenzione. L'ingegner Wilson Great Batch può finalmente tirare un sospiro di sollievo. L'apparecchio per la stabilizzazione del battito cardiaco da lui inventato e sperimentato dal cardiochirurgo William Cardac inizia a funzionare grazie alle nuovissime pile a litio. Inventate e commercializzate proprio nel 1970, esse comportano una vera e propria rivoluzione nel campo delle batterie per le ridotte dimensioni, per la bassissima tossicità e soprattutto per un tempo di vita molto lungo. Le batterie a litio sono generalmente di piccola forma, di solito a bottone, e vengono oggi utilizzate per orologi, macchine fotografiche, calcolatrici, telecomandi auto per chiusura centralizzata e oggetti elettronici di vario tipo. Ma soprattutto vengono utilizzate per tutti gli apparati impiantabili per via chirurgica, dai pacemaker ai defibrillatori. E la Great Batch Ltd. ne è uno dei principali produttori mondiali. Come sottolinea il professor Joseph Rayleigh, cardiochirurgo dell'ospedale Hagerstown Heart nel Maryland, oggi l'impianto di un pacemaker è considerato una prassi medica semplicissima. Sì, oramai avviene di routine, viene fatto con anestesia locale in day hospital. Dopo l'impianto i portatori di pacemaker possono riprendere la loro attività come prima, e anche meglio di prima, se questa attività era stata limitata o compromessa a causa della malattia elettrica del cuore. Non vi sono limitazioni al movimento fisico, alle posizioni del corpo e anche negli sport in genere. Vivere con un pacemaker non è una menomazione. Lo dimostra l'esperienza di milioni di pazienti in tutto il mondo e anche una lunga serie di personaggi famosi, tra cui l'ex presidente della Repubblica Ciampi, Edoardo De Filippo, il Papa Benedetto XVI, Madre Teresa di Calcutta. E tutto questo grazie a un errore. L'errore di Wilson Greatbatch, un uomo che ha saputo guardare oltre l'ovvio, e grazie all'apertura mentale del dottor William Kerdak e al suo spirito di innovatore. L'elogio dell'errore non è mai stato tanto valido come in questo caso. Avere ragione ci tiene inevitabilmente fermi, mentre l'errore è un lievito ricco di fermenti e ci spinge a esplorare per trovare sempre nuove vie. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.